Chiunque trova la spiegazione a queste mie parole non troverà mai morte, saprà affrontare ogni dolore, non avrà bisogno di nessuno, non cercherà più altrove, e la sua casa sarà al mondo e avrà la pace nel cuore. Se i vostri capi vi diranno il regno è nei cieli, allora gli uccelli vi precederanno negli albori degli albori. Se vi diranno è nei mari, allora i pesci vi precederanno lungo i fiumi, lungo i torrenti, oltre i confini. Io ti dico, il regno vive, vive dentro di te. Hai tutto per essere il tutto, tutto è dentro di te. Hai tanto per essere tanto, tanto grano, tanto frumento, tanta luce, tanto amore. Vola, vola nel tuo cuore. Sarà nascosto, tutto rivelato. Guarda con occhi puri le meraviglie del creato. Non ispirarti dai superbi né dai discepoli furbi. Non seguire le loro tracce, il loro odio, le loro facce. Un giorno un pescatore gettò al mare la sua rete, in mezzo a tanti minuscoli pesci ne trovò uno grande grande. Sei a orecchie per ascoltare, non esitare, non esitare, non troverai da nessuna parte le mie parole. Io ti dico, il regno vive, vive dentro di te. Hai tutto per essere il tutto, tutto è dentro di te. Hai tanto per essere tanto, tanto grano, tanto frumento, tanta luce, tanto amore. Vola, vola nel tuo cuore. Seminò sulla strada, ma gli uccelli mangiarono. Altri caddero sulla pietra, ma le spighe non fiorirono. Altri si posarono sulle spine, ma i vermi li soffocarono. Solo nella terra buona si raccolgono i frutti di una vita. Quando avrete trovato il principio, sarete alla fine di ogni fine. Tu pianta le radici, lì dove terra non ha confine. Anche le pietre ti obbediranno. Il regno è un seme di mostarda per tutti gli uomini di buona fede, per tutti i nomadi una sola tenda. Io ti dico, il regno vive,